Salve a tutti cari amici e benvenuti alla 13ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino e oggi mercoledì 11 gennaio, per fortuna o per sfortuna, questo chiaramente dipende dai punti di vista, sono definitivamente terminate le feste natalizie anche per quest'anno. Ci siamo un po' salvati, ci siamo un po' ingrassati e abbiamo fatto tutto quello che è regola fare durante le feste di Natale, vale a dire abbiamo fatto finta di essere più buoni, di voler bene a un sacco di gente che in realtà non sopportiamo e che fino al prossimo Natale non ci interesserà nemmeno di rivedere o di risalutare per caso se la incontriamo per la strada, anzi cambieremo marciapiede molto spesso, però ahimè Qua le lucette natalizie sono sparite dalle città, i negozi hanno iniziato a mettere fuori gli adesivi saldi e questo vuol dire una sola inesorabile cosa, che tutto sta tornando alla normalità. Le scuole hanno ricominciato a funzionare, i ragazzi hanno ripreso il loro tran tran e con loro pure gli insegnanti. Ahimè, cari amici, non c'è proprio niente da fare, anche per questa volta è andata così. Ricominceremo tutto come prima, però come sempre la ruota gira e tutto va come va, come va e come è sempre andato. Quindi è finito il Natale, è vero, ma non vi preoccupate, fra pochissimo ricominceremo a vedere le pubblicità magari delle isole sperdute in chissà quale mare e allora inizieremo di nuovo a pensare alle nostre ferie di agosto. E ci sembra ancora tutto così lontano, in realtà è tutto maledettamente vicino. Secondo me è sempre così, è come quando vedi la prima pubblicità di Natale dell'anno, la vedi che ne so a settembre e dici ah boh, ma è settembre, eppure siamo qua. A me mi sembra di averla vista ieri e in realtà l'ho vista 4 mesi fa e me lo ricordo benissimo che vidi addirittura il cartellone per il veglione del 31 dicembre in un dancing qua della zona dove abito e c'era, era settembre, mi ricordo che era settembre, c'era questo cartellone che pubblicizzava la serata, prendevano già addirittura le prenotazioni e pensai, oh boh, è talmente lontano che questi qua proprio si sono portati avanti col lavoro, ma invece niente da fare, mi sembra ieri è già terminato. Un'altra caratteristica che ci fa pensare, che ci fa riconoscere che il Natale è irrimediabilmente finito è che ci siamo veramente svegliati e resi conto che tutti i nostri buoni propositi sono andati più o meno a farsi benedire e questo vale più o meno per tutti, proprio per tutti come sempre no, però sono abbastanza convinto che per molti di noi è andata così e me per primo mi ci metto nel mezzo. Il buon proposito classico di tutte le feste di Natale è quest'anno starò attento a mangiare meno panettone, a mangiare meno torrone, a farmi meno cotechini e lenticchie, pranzi, cene, bevute e mangiate. E poi siamo arrivati in fondo alle feste di Natale e ci siamo accorti che invece tutti questi buoni propositi non siamo stati così in grado di rispettarli. Allora è partita o sta partendo la corsa inesorabile alla palestra, chiaramente per rimettersi in forma, come avevo già detto nella precedente puntata del Vagabondo. È molto bello questo, secondo me fa molto bene andare in palestra, fa molto bene avere cura del nostro corpo. L'importante è farlo, non è magari pagarsi 6 mesi di abbonamento in palestra e poi dopo 3 settimane ti sei già un po' stufato e quindi smetti. L'importante è farlo, non è solo avere il buon proposito, altrimenti resta un buon proposito come quello di non mangiare per le feste di Natale, resta lì e non lo rispettiamo. Chiaramente per molti di noi, associato all'attività fisica che è bene fare, partiranno delle diete o delle specie di diete. Mi raccomando, non fate quelle diete sconsiderate che non vi fanno mangiare niente per qualche giorno e poi vi fanno mangiare qualcosa e poi così via, questi tira e molla insensati con il cibo. No, non serve a niente farli, anzi fa male alla salute e non serve per perdere peso, anzi farà di voi dei famelici esseri umani che a un certo punto, senza nemmeno accorgersene, addenteranno qualsiasi cosa e ingurgiteranno di tutto e di più. Quindi se volete fare una dieta, fatela, ma come tutte le cose è bene che ci sia un equilibrio, è bene che sia equilibrata e probabilmente è molto bene e è preferibile che questa cosa sia seguita da qualcuno che se ne intende, da qualcuno che sa dove mettere le mani. Magari non vi fate infruscare da bevande miracolose che si bevono una volta al dì per perdere i grassi, per bruciare il peso. Non è così che funziona, mi raccomando, state attenti, vogliatevi bene. Un'altra cosa che chiaramente molti di noi avranno fatto, molti di voi, io stesso chiaramente, come tutti gli anni mi capita, ho fatto, e anche questo è un segnale che le feste di Natale se ne sono ormai andate, è la lista, diciamo, dei buoni propositi per l'anno che è appena cominciato. Chiaramente tutti, o più o meno tutti, abbiamo in mente qualcosa che sia appunto un'intensificazione dell'attività fisica, ma magari, che ne so, per qualcuno può essere sì, andrò una volta al mese a dare il pasto alla Caritas, che ne so, oppure uno fa un'altra cosa. È molto bello, stessa cosa, anche qui avere dei propositi buoni per il prossimo anno, ma anche qui non disattendeteli, altrimenti non si è fatto niente. E un'altra cosa che è molto significativa per la fine delle feste è quando si inizia a smettere di indossare quei coloratissimi e sgargiantissimi maglioni che sono non sono invernali, sono prettamente natalizi. Ci sono quei maglioni che sono brutti, sono effettivamente brutti, ma parecchio brutti. E cosa succede? Sotto Natale vengono abbonati, anzi, quando qualcuno se li mette ti fanno anche ridere, quei maglioni con le rennettine, con il Babbo Natale, con il cappellino. Poi chiaramente, anche se fa un freddo cane, quella roba lì non te la metti più se non è Natale. Quindi quando vediamo sparire quelli dai petti di uomini e donne, ahimè, anche questo è un grosso segnale che le feste di Natale sono finite. Sfatiamo intanto anche un mito del Natale. Alla fine, a Natale siamo tutti più buoni. Sembra che questo non sia proprio vero. Secondo degli esperti e degli psicologi italiani, soprattutto quest'anno, hanno notato, hanno indicizzato un picco di associazione diversa dall'essere buoni al Natale. Praticamente, cosa succede? Molti di noi hanno vissuto il Natale addirittura con ansia e con una fortissima dose di stress, e questo è molto, molto indicativo secondo me. E anche la noia e la delusione, secondo gli esperti, fanno parte dei sentimenti prevalenti nelle persone durante la festività di Natale. Chiaramente gli adulti, perché i bambini invece ancora vivono il Natale con gioia e con entusiasmo, cosa che però quando si cresce evidentemente sembra che non succeda più. E anzi, addirittura, a sentire quello che dicono gli esperti psicologi, i sentimenti sono proprio opposti. Praticamente l'angoscia, l'ansia e lo stress che proviamo è dovuto al fatto per l'appunto di dover essere costretti, dover incontrare persone delle quali non ci interessa assolutamente niente, generalmente sono parenti, delle quali non ci interessiamo durante nessun periodo dell'anno, se non per quella sera di Natale o per quel pranzo di Natale o comunque del periodo di Natale in cui siamo costretti a ritrovarci. Questa cosa ci produce, pare che produca nelle persone tanto stress, perché probabilmente poi hanno da essere messe in gioco delle situazioni che scatenano lo stress, perché alla fine quando sei lì poi qualcosa ti dici, magari sei costretto a chiedere una cosa che non ti interessa, sei costretto a dire una cosa di te, una cosa che non vorresti dire, magari non vorresti dire in generale, oppure non vorresti dire proprio a quella persona lì, a quella zia lì, a quel cugino lì di cui non ti interessa assolutamente niente. E un'altra fonte di tanta ansia e tanto stress sono i regali di Natale. E infatti sembra proprio che per questo motivo i regali di Natale quest'anno soprattutto siano stati fatti veramente all'ultimo minuto, all'ultimo istante, e addirittura sembra che sia molto prevalente il riciclaggio di regali vecchi. Quello che anche io dico da un po', che alla fine è un mio modo di fare, è un mio modo di vivere questo periodo dell'anno, e che ho ritrovato in questo articolo di questo studio degli esperti e psicologi italiani sul Natale, è che nonostante che sia Natale, nonostante che da piccoli ci abbiano un po' insinuato il senso di colpa e quindi ci dicevano è Natale, devi essere più buono, è Natale, fai così, è Natale, fai colà, e poi chiaramente i sensi di colpa raddoppiati o triplicati magari per un pensiero brutto o per un'azione poco bella, però sai, quando siamo bambini tutto più o meno si fa e tutto più o meno si perdona, però poi da adulti ci teniamo ancora con noi questo senso di colpa che praticamente ci viene instillato dentro in quella tenera età e poi non ci abbandona più. Praticamente cosa dicono gli psicologi? Dicono: vivete il Natale, vivete questo periodo dell'anno normalmente, come se fosse un giorno come gli altri. Fate le cose che vi piace fare, non sentitevi costretti a vedere o incontrare ex amici oppure parenti solamente perché è Natale, oppure non perdonate fra virgolette una persona che vi ha fatto qualcosa di molto brutto solo perché è Natale, non forzatevi ad essere buoni solo perché è Natale, perché questo produrrà a voi stessi un ritorno di ansia e di stress, alla fine potrebbe causare addirittura una patologia. Di conseguenza, questo è il consiglio degli psicologi, degli esperti che, a differenza di me, sono persone titolate e tutto quanto. Chiaramente questo è anche il mio consiglio. E come sempre vi dico, anche al termine di questa 13ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo, cari amici, siate saggi!